Ehi, c'è qualcuno in casa? Ehi, sono io! Come io chi? Sono Chuck Bird. Benvenuti all'Early Bird Special. Passerottini e passerottine care, benvenuti all'Early Bird Special. Questa è la prima colazione servita tutti i giorni dalle 6 alle 7 dalle frequenze di Rock FM. Io sono Chuck Bird. Anche per oggi, giovedì 15 novembre, saremo insieme fino alle 7, momento in cui entrerà in gioco pane, burro e rock and roll con Ariele e Freak Anthony. Ma abbiamo ancora tanta musica da ascoltare e qualche chiacchiera sulla vita delle rock and roll star. Con noi Asia, Don't Cry. Thank you. Asia, Don't Cry, supergruppo, giovedì 15 novembre, Early Bird Special, il super fine settimana rock and roll si sta avvicinando a grosse falcate e se sarete insieme a me ce la faremo alla stragrande. Romantics è solo di nome, non di fatto, perché suonano del grand rock and roll. What I Like About You. What I Like About You, What I Like About You. Sapete cosa mi piace di voi? Mi piace tutto, perché se siete qui al mattino all'Early Bird Special vuol dire che siete anche voi molto special, molto speciali. Volete entrare in contatto con il vecchio Chuck Bird? Lo potete fare. Potete farlo mandando una mail a bird@radiorockfm.com. E per ringraziarvi dell'attenzione vi regalo un pezzo dei Beatles, Let It Be. In times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see, there will be an answer, let it be. Let it be, yeah. L'Early Bear Special è la prima colazione servita da Rock FM. C'è come al solito della buona musica e c'è il vecchio Chuck Bird e ci sono le sue chiacchiere e le sue storie di rock and roll. Vi ho mai raccontato la prima volta che i Ramones si ritrovarono in una sala prove? Beh, roba forte, ma ve la racconterò appena dopo The Sanity Assassin. Loro sono i Bauhaus. Bauhaus, The Sanity Assassin, L'Early Bear Special, ma parlavamo di storie di rock and roll, di quello serio, come la prima volta che i Ramones entrarono in sala prove. Ebbene, Joe Cummings, che diventò in seguito Johnny Ramone, faceva l'operaio edile, cioè il moratore, al 1633 di Broadway, a New York City. Di Ramone e sua madre si trasferirono lì e si ritrovarono tutti i giorni per pranzo. Di solito andavano al Metropole, un go-go bar, a farsi qualche birra. Quando erano un po' brilli andavano da Manny's Guitar, che si trovava proprio lì accanto, sulla 48esima, e guardavano le chitarre. Poi un venerdì, il giorno di paga, si comprarono uno una chitarra, l'altro un basso. Erano una Moss Wright e un Dan Electro. Qualche giorno più tardi, Johnny e Didi chiamarono Joey, un loro amico, e gli chiesero se voleva entrare anche lui nella band. Lui naturalmente rispose di sì. Il loro amico Monte Melnick gli infilò in una sala prove chiamata Performance Studios. Cercarono di imparare qualche canzone ascoltando dei dischi, ma non ci riuscirono. Non avevano la minima idea di come si facesse ad accordare una chitarra e Johnny conosceva solo l'accordo di Mi. E nessuno degli altri se la cavava meglio, pertanto. Durante la prima prova, Joey cominciò col suonare la batteria. Ma lì ci vollero 2 ore solo per preparare il set. Ad un certo punto, spazientiti, i due cominciarono a suonare, ma si fermarono poco dopo. Guardarono in direzione di Joey e videro che non aveva neppure montato lo sgabello della batteria. Era seduto sul supporto di metallo. Quella fu la prima sessione di prove dei Ramones. Quello fu veramente l'inizio dei Ramones. Under the outdoor with the steamboats, ancient goblins and wallows, come at the grand line making a stand. The smell of death is all around. And at night when the cold wind blows, no one cares, nobody knows. I don't wanna be buried in a pet cemetery. Addicted to the sacred place. This ain't a dream, I can't escape. Moldings and fangs, the clicking of bones. Spirits moaning among the tombstones. And at night when the moon is bright, someone cries for being right. I don't wanna be buried in a pet cemetery. Live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I feel a chill. Victor is grinning, flesh is riding away. Skeleton dance, I curse these days. And at night when the wolves cry out, listen close and you can hear me shout. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. Dalla colonna sonora dell'omonimo film di Stephen King, Ramones. E a te ci piacciono i Ramones? Sì? Ok, allora te la voglio dedicare, soprattutto per il fatto che in questo momento mi stai portando la mia tazza di caffè nero bollente. Gabba gabba hey! Early Bird Special, tutti i giorni dalle 6 alle 7, la prima colazione servita calda e fragrante dalle frequenze di Rock FM. Io sono Chuck Bird e questa è la grande musica che potete ascoltare su queste frequenze. Dopo i Mantai, Mississippi Queen, REO Speedwagon, Taking on the Run. Heard it from a friend who, heard it from a friend who, heard it from another.